benvenuti e buon Natale, visto che la regia mi informa che questa puntata probabilmente uscirà in quei giorni lì. Oggi io penso una puntata veramente, veramente tanto speciale, un ospite d'eccezione che faremo introdurre, ma andiamo con ordine. Dicevo appunto, benvenuti a questo episodio extra, si può dire? Special, sì. Spieghiamo un attimo. Speciale di Natale, tipo. Spieghiamo un attimo questa cosa. Annunciamo qui in questo episodio, perché è Natale e quindi siamo tutti più buoni, o meglio, siamo tutti in coma da cibo, quindi le notizie brutte possiamo digerirle insieme. Esatto, non interessano, ci volano sopra. Probabilmente il focolare elettrico sta per finire, mettiamola così. Nel senso che quando finisce una cosa, poi ne nasce un'altra, nel senso diventerà qualcosa di diverso, mettiamola così. Diciamo che il progetto principale, la grande struttura, si concluderà, non ci saranno più episodi nelle due settimane, forse perché anche noi ci siamo, non dico stancati, ma abbiamo anche bisogno di tempo per provare a fare altro, ma chi lo sa, di certo la nostra, come dire, mania di continuare a parlare dei videogiochi per due ore e passa, non finirà di certo, quindi... Diciamo, questo non è l'ultimo episodio, anche perché è un episodio speciale non numerato, e neanche i prossimi due, diciamo, saranno gli ultimi episodi probabilmente. Ne abbiamo già addirittura un altro da fare con Edoardo, quindi sempre in live, quindi... Sì, abbiamo programmato la fine da una vita e poi ci abbiamo aggiunto sopra episodi esatto, su episodi... Sono appendice, esatto, stile Ratman che doveva finire col 100 e poi è finito con il 122, tipo. Quindi, sì, cioè, non finirà subito, però finirà e ci saranno più episodi di questo tipo, dove avremo un episodio, cioè, un episodio... un ospite molto speciale che ci parla un po' di un gioco o di un tema a loro caro, insomma, un tema che sta loro caro. E lasciamo qualche secondo per piangere. Digerire, esatto. Un minuto di silenzio. E ok, penso sia sufficiente. Esatto, e direi che... Fammi finire l'introduzione, quindi al primo hashtag 1... O non so, S1 special one, episodio no, S1. Chiamiamolo senza numero, okay, perfetto, per confondere le del persone. Focolare elettrico, perché volevo almeno fare finire l'introduzione. Il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E qui con noi abbiamo Angela. Un applauso dalla regia. Ha finito tutto, dobbiamo montare su questa parte, sai, la classica introduzione da sitcom in cui entra l'ospite. Ah, okay. Esatto, l'ospite preferito, quello che fa. Esattamente. Ok. Angela, se non sbaglio, che è già stata nostra ospite altre volte, se non sbaglio. No. Piombino? No. Qui no, cioè sul focolare elettrico no. È sicurissimo, mi sembrava che avessimo avuto almeno un suo intervento, forse. No, forse mi sto confondendo io. Forse era sullo sfondo, tipo mentre Sara diceva cazzate, lei lo corre. Diciamo che siamo finalmente riusciti ad averla tutta per noi, almeno per questa sera, e che dire, ci parlerà di un argomento che forse abbiamo già un po' trattato in parte in questo podcast. Allora, Marco non ne ha mai parlato e ogni volta che ne parliamo dice per favore non parliamone perché... Cioè, hai già detto troppo, Jacopo. E questo episodio però si chiama... Cazzo. Non mi è venuta. Avevo scommesso che mi venito mentre lo dicevo. Non mi è venuta. Va bene. Buon Natale. Lo chiameremo qualcosa tipo... non lo so. Felice anno... Potrebbe stare una cosa del tipo... Once again with emotion... o qualcosa del genere, proprio per citare. Però scritto male, come lo canta Gio Giovanni. Scritto in italiano e in inglesizzato. Fantastico. Allora, prima di iniziare le nostre solite rubriche, perché anche quelle lì sono sempre importanti, Angela vuole dare, non lo so, una piccola presentazione ai nostri ospiti, perché come dicevo, un ospite d'onore, ai nostri ascoltatori, scusate, visto che è un ospite d'onore, se vuole dire qualcosa di introduzione, le lasciamo un attimo per... No. Perfetto. Perfetto. Cominciamo subito, la conoscerete... La conoscerete durante la puntata, e questo è il bello, no? Che comunque posso dirti, Angela, fai una, come si dice, un'imitazione di Andrea incredibile, cioè, sembrava che ci fosse anche lui adesso nel podcast. Scusate, questo è per i fan del Salotto. Chi lo sa, magari c'è sempre stato e semplicemente ci siamo, ecco. Questa è cattiva, questa è troppo. Lo so, scusa questa Andrea, non volevo. Quindi, andiamo con ordine, partiamo dal principio. Jacopo, hai qualche notizia per noi questa settimana? Vuoi raccontarci a che cosa hai giocato? Niente di che, non è uscito nulla che io aspettassi da circa 6 anni e che volessi giocare talmente tanto che a momenti mi ci prendevo una giornata di lavoro se avessi potuto prenderlo. Quindi no, davvero, niente. Bene, perfetto. Ho giocato all'Infinite. Giusto, è ho uscito giocato... l'8 dicembre, è uscito in orario, no? Se non sbaglio. Sì. In perfetto orario, alle 7 di sera, bastardi. Alle 7 di sera. Cioè, per una volta che capita un gioco che esce in una giornata che è festa nazionale, non si lavora. E io il giorno prima avevo festa perché è Sant'Ambrogio, Milano. Sant'Ambrogio, sì. Giustamente lo fanno uscire all'ultimo momento possibile e io perdo tempo a scaricarlo quasi tutta la serata e la sera registriamo, quindi cioè, abbiamo registrato il Salotto, quindi giustamente 65 giga, che sofferenza, però l'ho provato, l'ho finito poi prima di registrare questa puntata, tutto in quella serata, quindi a posto. Tutto, esatto, non sono andato a dormire direttamente e no, l'ho finito. Quanto dura la campagna? Me l'ha chiesto prima anche il signor Salla e lo scoprirai in questi giorni. Lo scoprirà. Dipende da come l'affronti. Diciamo che Halo Infinite è un gioco, secondo me, a livello di gameplay spettacolare. Cioè, è il migliore della saga perché è out of the wild, praticamente. Cioè, nel senso, hai armi, granate, cose che esplodono, eccetera, però hai un rampino e puoi andare ovunque. E quindi il gioco, per me, il divertimento è stato usare il rampino, tipo per scalare le montagne o fare Spider-Man con gli alberi, e andare in giro e scoprire cose, cioè sono dettagli. Quindi stai dicendo che Halo Infinite ti fa proprio sentire come Spider-Man? Mi fa sentire come come Spartan-Man. No, se vai diritto e fai solo la storia e non vedi altro, prima di tutto il gioco è più difficile perché non vedendo altro non hai dei potenziamenti molto utili. E poi però, se comunque la campagna finisce prima, ci vorranno all'incirca 6-7 ore per finirlo. Se vai proprio dritto non fai altro, forse 8. Solo. E se invece quindi ti metti... giocato in una sera? Beh, oddio. Io no, ho perché fatto... lui non è andato dritto. Io diciamo che all'inizio ho fatto un po' di cose in giro, sono andato un po' a esplorare, ho visto un po' di cose, e mi è piaciuto tantissimo... Ho usato il rampino. No, il rampino, cioè, voi non potete capire, è la meccanica più soddisfacente. Cioè, allora, io mi rendo conto che c'è stato il rampino, ci sono stati rampini in altri giochi, e in alcuni giochi sono molto soddisfacenti, in altri un po' di meno. Questo rampino è uno di quelli fatti meglio, secondo me, della storia. Cioè, è una cosa troppo divertente, troppo facile da... Cioè, è facile da usare, da leggere, da capire come usarlo, è prevedibile quello che succede, perché sta succedendo una cosa. Fisicamente pure, cioè, ti dà un sacco di velocità, di momento di inerzia. È bellissimo, cioè... Mantiene la dinamicità del gameplay di Halo, è questo. Tantissimo, perché ti permette di riposizionarti velocemente, di prendere armi oppure delle bobine da lanciare che sono lontane, di avvicinarti velocemente a un nemico, prima di tutto bloccandolo, cioè stunnandolo con l'elettricità. È bellissimo il rampino in questo gioco, ma anche altre, in realtà anche altre abilità che ci sono da potenziare sono abbastanza belle, ma il rampino le sovrasta, cioè proprio le distrugge completamente le altre. E anche l'IA è fatta abbastanza bene, un po' scema all'inizio, appunto il mondo è bello da esplorare, ci sono segreti, easter egg ovunque, c'è anche un bel po' di storytelling, diciamo, nell'ambiente, quando scopri delle cosette nascoste, E diciamo che come storia è abbastanza semplice, quindi non è quel mattone che era lo 5 o lo 4, anche abbastanza ridicolo. Rimane un po' criptico, diciamo, rimane un po' misterioso e purtroppo non è una storia che si conclude, che questa cosa mi fa un po' incazzare. Quindi suggerisce un continuo? È un continuo, probabilmente in dei DLC o delle future campagne, sempre in questo gioco. E il gioco che è stato proprio evidentemente, pesantemente cattato. Cioè hanno fatto dei tagli, cioè... Ah. È come se ti arrivasse George Lucas alla sala del montaggio con 4 ore e mezzo di film e dici no, cioè non possiamo... Cioè, proprio... 1 ora e 20. Cioè, di cui 3 ore e 20 sono dialoghi sulla tassazione e la diplomazia internazionale, cioè nel senso no, quindi è evidente... Lo so, magari li ritroveremo nei DLC questi. Ah, sicuro, sì, non vedo l'ora il DLC sulla dichiarazione dei redditi di Halo Infinite. No, è evidentemente stato tagliato tantissimo, c'è solamente un bioma, c'è solamente, diciamo, un luogo, come posso dire, una macro mappa da esplorare. E la storia è rimasta proprio appesa. Cioè, viene chiuso un capitolo importante, molto importante, in questo gioco. E fortunatamente spiegano alcune cose successe fra il gioco precedente e questo. Viene anche presentato un po' un nemico molto importante che non era mai stato visto nei giochi di Halo principali, perché è stato visto solo in una saga secondaria, Halo Wars. Insomma, hanno fatto tante cose bene, però mi è rimasto un po' di retrogusto di però potevano fare di più. Cioè, se avessero avuto questa Quindi direzione... Quindi, in definitiva, stai dicendo che, come succede sempre più di solito, il gioco completo esce tra un anno. Questo che... Non lo so, non è troppo, è troppo presto per dirlo. Ho l'impressione di sì. Però quello che c'è è solido, è contenuto, è comprensibile ed è soprattutto molto divertente. E questa è la cosa che mi ha stupito di più, perché non è che mi ha stupito, cioè dai trailer già si capiva, dal gameplay e anche dalla multiplayer si capiva, però mi ha davvero estasiato quanto fosse divertente esplorare il mondo, quanto fosse bello semplicemente usare il rampino. Cioè ci sono momenti in cui ho avuto... Come hai detto tu prima, scherzando, ma è vero, cioè, ho avuto la sensazione di Spider-Man, cioè ho detto, ma perché devo usare il viaggio rapido o una Jeep se posso andare lì col rampino e divertirmi e urlare come un coglione? Cioè, anche perché, qui sembra molto filosofico, poi non senti l'odore delle rose, come si dice, no? Don't smell the roses, perché non, se vai magari troppo veloce non becchi la roba nascosta, non becchi quei momenti emergenti, cioè quei momenti dialogo che nascono dall'interazione con la sandbox, perché hai dei momenti che per te sono unici, cioè che, no, non per te, sono davvero unici magari, cioè ho visto uno l'altro giorno che tipo praticamente ha visto un come posso dire, ha ucciso un nemico, un boss, un mini boss, e nel filmato dopo l'uccisione di questo nemico c'era, vabbè, un filmato dove si attivava un ascensore gravitazionale, cioè una roba che tira su, che serviva a farti andare verso l'alto essenzialmente, no? Durante quel filmato però il cadavere del nemico che ha appena ucciso questo tizio era vicino all'ascensore gravitazionale. E quindi è partito. Quindi io nel filmato vedevi questo che ascendeva tipo Gesù Cristo verso l'alto. E era perfetto, cioè, poi pure con i tempi comici. Ecce homo, esatto. Ed era tutto quanto derivato dalla sandbox, cioè dal fatto che fosse tutto in sandbox. Ma ce ne sono un miliardo di esempi così anche durante il gameplay. Cioè, Halo è davvero, mi sembra, tornato ai vecchi tempi in cui la sandbox la faceva da padrone, insomma, da padrona. Bello. Bello. Quindi sono contento, sono un pochino deluso. Molto finale? Ma io ho guardato più e più volte la recensione di Easy Allies, scritta da un certo Ben Moore, che è molto bravo in quello che fa ed è molto onesto. E alla fine, cioè, rileggendola pure scritta, ha beccato in pieno qualsiasi cosa di bello e di brutto. Gli ha messo 8 su 10, quindi mi sento abbastanza sicuro a dire anch'io un bello 8 su 10, diciamo. Perché... Ora come ora, ripeto, ci sono dei problemi, Io ho avuto anche dei bug visivi molto brutti che non mi facevano vedere un cazzo. Multiplayer ha tantissimi altri problemi. Cioè, è un gioco che, come dici tu, fra un anno sarà un 9. Nel senso... Certo. Però già è meglio di come è uscito Cyberpunk. Giusto in tempo per comprarlo in sconto su Steam. Esatto. Esattamente. Bene, io chiudo molto rapidamente. Non ho ancora finito di platinare Dark Souls 3, quindi sto giocando a Dark Souls 3. E probabilmente continuerò fino a che lo metterò nelle informazioni dell'episodio in cui platinerò Dark Souls 3, quindi a posto. Ma Angela, io voglio sapere di te, che cosa, presentati ai nostri ascoltatori, allora, appunto, dicendo che cos'è che ti... Allora, io giochi? In realtà io ho giocato di recente a Peggle, di cui sono una grandissima fan. Wow. Ottimo, ottimo. Sì, tra l'altro in realtà ho passato il 7 pomeriggio a Sant'Ambrogio a giocare a Peggle. Perfetto, stupendo. E poi in realtà sto giocando a quello che è il motivo per cui sono qua, ovvero a Pokémon Perla Splendente, mi pare sia in italiano. Dovrebbe essere Perla Splendente. Lucente Splendente, sono in inglese. Lucente, perché mi sa che hanno messo Diamante Splendente e Perla Lucente. Veniva un po' troppo... Perché se no era Splendente Splendente. Tipo, cerchiamo. No, Shining Pearl, ok, no, ha senso. Perché in inglese però bisogna vedere in... Diamante lucente, perla splendente, confermo. Okay. E quindi sto in realtà giocando quello, e poi dopo la scorsa puntata del focolare elettrico volevo riprendere... Cosa? Genshin. Sì, grazie. Ah, giusto, perché... Cioè, la puntata ha avuto l'effetto opposto di quello che speravo. Beh, è un po' come sventolare, come dire, un sacchetto di cocaina davanti a un... Ma posto, e allora... Però. Sì, tu conta che a me non piacciono i giochi in cui devo interagire con altri esseri umani, e quello in cui posso non farlo, posso declinare direttamente l'offerta, per me è fantastico. Mm-hmm, mm-hmm. È un'affermazione molto interessante la tua, ma perché per esempio mi vengono in mente, non so, titoli a caso, così, tipo Unravel 2, che... L'ho iniziato a console la scorsa settimana, però e ho dei problemi con i platini. Subdolamente, aggiungerei, chiesto di... tirarlo fuori come argomento, perché a quanto pare ha avuto un certo impatto, giusto? Che venduto che sei, ma e io ho tiltato. Però abbiamo giocato anche a Overcooked, dove tiltava Salla, quindi insomma, è vero, monopari. Comprensibile, assolutamente. Quindi vabbè, per pacco 10 dovremmo tirare fuori Overcooked quando ci sarà Salla. Esatto. Giustamente. Ma scusami, una domanda a curiosità, vabbè. Genshin Impact, hai detto, ti piace anche perché, vabbè, è gratis, ma soprattutto mi piacciono gli RPG, particolarmente quelli giapponesi, tipo Fire Emblem per me è un must. Oh, bello, saga con cui non sono mai riuscito ad appassionarmi veramente, questo io però sicuramente... Ma l'ultimo che è uscito penso 2-3 anni fa in realtà, e a me è piaciuto veramente molto. Ma quale, Treehouses? Sì, esatto. Ma è così vecchio già? Oddio, come passato? Sì, è uscito quasi, come dire, è stato uno dei titoli di lancio per la Switch, se non sbaglio. Sì, secondo me ha già 2-3 anni tutti. In realtà è più recente di quanto pensassi, nel 2019, 26 due luglio, anni. Per essere preciso. Quindi ti piacciono questi RPG alla giapponese, sì. Diciamo. Non necessariamente esatto. A turni. Però. Preferenzialmente a turni, cioè mi piace avere il mio tempo per decidere, pensare, guardare, fare, non per forza giapponesi, ad esempio ho speso un sacco di tempo su XCOM. Questo ne avevo parlato, infatti c'è questo gioco che sta per uscire per Switch nel 2022, si chiama Mario Plus Rabbids Sparso Pop, e vabbè, ok, niente. È già stato allocato il budget. No, ne avevamo già parlato, mi pare, di XCOM. Forse andrebbe fatto anche un episodio su quello, ma... Sì, quello tra l'altro è vecchino. Quello che intendevo io è che effettivamente non ci sono tanti giochi free-to-play dove hai questa opzione di non interagire con altri esseri umani, diciamo. No, la Switch per fortuna me ne dà ancora qualcuno, però free-to-play ce ne sono pochi. Sto pensando, cazzo, effettivamente, tipo Warframe, forse? Non so. No, Warframe non è a turni. No? Ah no, è vero, beh, no, sì, decisamente no, non dicevo free to play, dicevo free to play in generale. Ah beh, no. No, free to play sì, è sempre stato, non lo so, difficile trovarne di buoni, mettiamo la sempre la componente sociale forse. Ma come mai non, se c'hai un motivo, se no, come mai non ti piace giocare con altre persone? Beh, a parte perché le persone sono pessime, però a parte quello. No, allora, io ho giocato sempre tanto negli spostamenti, quindi giocavo spesso in treno, giocavo in pullman o in macchina quando ero piccola, facevamo i viaggi con i miei, e poi ho sempre giocato su console Nintendo, quindi già l'Xbox che ha i tasti al contrario mi fa tiltare un po', però... È Nintendo che ha i tasti al contrario, scusa. Non per me. No, poi beh, quindi avendo sempre giocato principalmente, vabbè, sul mio vecchissimo Game Boy Advance SP, prima ancora quello Color di mio fratello, e quindi sono sempre stati giochi dove l'interazione con altre persone non era prevista. Perché fino al DS proprio era difficile fisicamente connettere due console, serviva un cavo. Esatto. Il cavo, mamma mia. Che bello. Quanti ne ho persi di cavi per Game Boy. Ok, quindi dici quasi una storia così familiare ormai, così ma poi quasi... ho sempre giocato, ho sempre avuto una preferenza per gli strategici a turni, e quindi vi consiglio il bellissimo gioco del Signore degli Anelli per Game Boy Advance SP, molto bello. Sì, io penso, no, io l'ho finito penso all'età di 15 anni, iniziato all'età di 11. Molto bello. Era bello anche l'RPG stile Diablo isometrico. Quello era stupendo, cazzo. E quello che ce n'era uno tipo... Forse era l'Hobbit, in realtà, era... Non lo so, mi ricordo che ne ho avuti anch'io, di sicuro me li sono passati per le mani. Ho avuto i classici giochi di Harry Potter per DS, per Game Boy, cose del genere. Madonna. Ah. Sì, ci sarebbe comunque un bel episodio... Magari parliamo di XCOM, parliamo Non doveva anche... finire la... quindi principalmente questo è il motivo, cioè ho sempre giocato da sola e in movimento, quindi anche adesso gioco, col fatto che viaggio in treno, gioco spesso in treno. Ma è difficile anche giocare strategici a turni con altre persone, perché è un ritmo di gioco un po' diverso, un po' più lento. È un ritmo di gioco veramente lento, veramente. Infatti, secondo me è geniale Civilization, che ti permette di giocare a tempi diversi, tipo tu fai una mossa, torni la sera e l'altro ha fatto un'altra mossa, un po' tipo... Però quello mi scocciava, il dover aspettare, cioè mi piace avere il mio tempo da dedicare e quindi faccio quello, e ovviamente avere il turno avversario quando giochi col computer è molto veloce. Ah sì, ok, sì sì, certo, pure quello è più conveniente, lo capisco. E diciamo, scusate, continuiamo su questa linea dei giochi strategici, cos'è che, cioè, comunque ti piace il fatto, per esempio, del movimento, che sia molto importante, o preferisci più mi piace proprio stare, io in maniera molto cervellotica sto proprio lì a pensare ai vari movimenti, ogni tanto torno indietro per cambiarli, per vedere come sarebbe andata, cioè, mi piace poter esplorare le diverse possibilità, e la customizzazione progressiva che hai dei personaggi, che è abbastanza tipica degli strategici a turni, che progressivamente i tuoi personaggi prendono abilità in base a cosa li fai fare, a come decidi farli evolvere, e quindi come, nel maniera, cioè come puoi giocarli, come puoi riusarli, le diverse possibilità. Non so se si sente, ma sto annuendo molto vigorosamente. Non so se si sente. Assolutamente, beh. No, il movimento... Nulla da ridire, perché mi sembra assolutamente una descrizione perfetta dei punti di forza di tutti. No, è anche un motivo per cui a me piace giocare da sola, perché ad esempio a XCOM una missione magari ci mettevo un'ora e mezza a farla, perché rigiocavo diversi punti finché non andava esattamente volevo io. Io faccio la stessa... Allora, in XCOM mi fa impazzire, perché io amo il movimento in XCOM, come è fatto. È bello, veramente bello. E poi tra l'altro... Sì, vai. No, anche il fatto degli oggetti che coprono, come viene utilizzata la mappa. Esatto. È veramente bello. È super leggibile cosa succede, perché ti hanno preso, da dove puoi sparare. È super fatto bene. Io infatti, cioè, il fatto che sia così ciso, mi ci perdo gli anni a ricaricare checkpoint. Però ok, adesso li metto qui, vediamo che succede. Questo, ah, adesso è morto questo, no? Mi sta simpatico? Tipo, cambiamo. Sì. Poi gli davo i nomi, sì, di persone. Non giocare a Fire Emblem. Esatto, sì. Tipo gli davo... Fire Emblem lo fai meno sta roba, ce l'ho fatta meno. E lì forse c'è più una narrativa vera e propria. Meccanica, sì, anche, ma poi ha una meccanica che io ho trovato assolutamente geniale. Cioè che è integrata nella storia la dea che viene presentata, è la dea del tempo. Quindi come meccanica tu hai che puoi tornare a annullare all'interno della partita. Oh, che bello! Carina! Proprio come, sì, integrata nella che è stata integrata nella storia, che poi è una roba che più o meno, cioè io ad esempio ho sempre fatto quella di semplicemente caricare il checkpoint precedente. Ovvio, ma chi dice di non averlo fatto è un bugiardo. No, questa, sì, cosa che metto... Che poi spegni senza salvare era proprio un must. Questa cosa che mettono le meccaniche dentro il gioco mi piace tantissimo. Cioè, in Desperados 3, che è un gioco, diciamo, dall'alto di stealth, c'è proprio dentro il gioco la meccanica del cono di visione degli avversari, del percorso che stanno seguendo. Cioè, il gioco ti fa vedere roba che di solito non fai vedere. Cioè, di solito è una roba segreta, nel senso... Sì, i nemici hanno un cono di visione, hanno un percorso che stanno seguendo, ma tu non lo sai. Invece ti fanno vedere tutto, il gioco poi ti incoraggia a spammare il pulsante del quick save. Cioè il gioco ogni 2 minuti ti dice, oh, che se fa? Salva! Che salva. È passato 2 minuti da quando hai salvato. A me quando i giochi fanno queste cose mi fanno ammattire, cioè quando integrano... Vabbè, scusate. Vabbè. No, però l'avevo trovato veramente geniale come utilizzo di questo, cioè di una meccanica che in realtà più o meno... Quella dei checkpoint è sempre stata usata. Però ti consiglio Chimera Squad, se l'hanno fatto uscire. Era uscito su Steam. Non avendo mai giocato a XCOM, quando era uscito non l'avevo comprato. Avevo comprato soltanto XCOM 2, che l'avevo trovato in offerta su Steam. Adesso è successo che io mi sono scocciata del mio computer e quindi l'ho abbandonato. Ho comprato semplicemente un tablet, quindi dovrei ricomprare XCOM e penso le stesse. No, allora, Chimera Squad. Allora, Chimera Squad non è un DLC, è un gioco a parte. Oh, e tra l'altro mi sa che è uscito anche tipo per iPad o per Switch, o forse per entrambi, cioè nel senso... XCOM per Switch c'è, però ho già ricomprato For the King per Switch. Ok. No, però dico, cioè, te lo consiglio se puoi di comprarlo su una roba, come dire, portatile, perché secondo me è un gioco molto portatile, nel senso che le missioni sono molto più corte, non ci sono tempi morti. Non quando le gioco io, però sì. No, ti giuro, anche con il mio playstyle che è uguale al tuo, cioè ricaricando e tutto. Tutto, dici? No, sono missioni da tipo 2 stanze, cioè proprio veloci. Infatti sta roba di XCOM che in realtà vai avanti progressivamente e i nemici vengono svelati progressivamente, era una roba che a me faceva un sacco. Perché a parte che apprezzi molto l'utilizzo dello stealth, ma perché vedevi veloce, cioè avevi dei piccoli pezzi e il turno avversario era molto corto. Invece Fire Emblem, che ha la classica meccanica dove tutti i personaggi devono giocare, anche il turno avversario, oddio, non era una roba lunghissima, però durava sui 2-3 minuti abbondanti. Ok, sì, no, infatti questo, diciamo che Link in la squad non c'è tanto stealth perché... Tu essenzialmente ogni volta fai irruzione in una stanza, però sì, cioè si applica lo stesso concetto, insomma, pochi nemici, turni veloci, e sì. È molto bello perché è molto condensato. Vabbè, sì, scusate il rant. No, a me è piaciuto molto perché penso che adesso abbiamo una visione più completa di quello, come dire, del nostro ospite, appunto. Conosciamo meglio Angela, conosciamo meglio noi stessi sotto un certo punto di vista, ma a questo punto faccio io quello che riprende un po' le redini della puntata e, come dire, cerco di far tornare tutto all'argomento principale di quest'oggi. Giusto per terminare le formalità, Jacopo, è successo qualcosa di interessante nelle ultime settimane nel mondo del gaming che vogliamo aggiornare? È successo tanto, ma magari ne parliamo... Sì, perché sennò siamo qua, cioè 3 ore, nel senso... Può stare, perché penso che probabilmente sarà la prossima, se non... Quindi la prossima puntata vedremo che cosa riusciamo a combinare. Quindi non spoileremo ancora nulla di quello che è successo per il momento. Esatto. Ci sono altre cose minori da dire, ma sono talmente minori che sì, cioè la cosa grossa la lasciamo per un'altra volta. Perfetto. E quindi è con mio enorme piacere introdurre l'argomento, come diciamo prima, questa sera, ovvero sotto richiesta del nostro stesso ospite, infatti siamo qui a parlare dei remake di Pokémon Diamante e di Pokémon Perla. Ed in realtà devo ammettere, ci ne parlavo anche prima con Jacopo, eravamo un po' impreparati perché in realtà non avevamo davvero idea di che cosa tu volessi, come dire, di quale fosse il tuo giudizio finale dei remake, prima cosa, ma questo ovviamente è quel che serve la puntata, ma anche diciamo in che direzione portarla, più una recensione, più un, non so, un dibattito, un rant, visto che non è... sono sentita in dovere di partecipare come unico difensore dei Pokémon dopo aver ascoltato la vostra puntata, che ha innescato ottimo. Anche una discussione. No, in realtà io sono sempre stata una fan dei Pokémon, ma una fan delle storie dei Pokémon, quindi giocati quasi tutti, ne ho perso qualcuno probabilmente con le uscite quando facevo le superiori, però da quando posso ho sempre giocato ai Pokémon. Adesso è uscito il nuovo Pokémon Perla. Facciamo io l'introduzione anche per chi magari non è così esperto. Vuoi fare tu, Angela? O lo lasciamo a Jacopo, che è il nostro maestro dell'introduzione. Ora, sono usciti due remake di due titoli vecchi e c'è una grafica un po' meglio. Sì, sì, più o meno sì. No, allora, Pokémon, in realtà, sta operazione dei remake l'ha iniziata, penso, più di una decina di anni fa. Io Pokémon Rosso Fuoco, che era il remake di Pokémon Rosso su Game Boy Advance SP. Wow. Quindi in realtà è un'operazione che è veramente iniziata secoli e secoli fa, ma ultimamente ha preso un pochino più piede. Hanno rifatto Pokémon Perla e Pokémon Diamante, li hanno rifatti con una grafica che a me piace moltissimo, piace davvero davvero tanto, perché non è la grafica che avevano utilizzato in Pokémon Alola, che fosse quello il problema, sarebbe già stato un successo, e neanche quelle utilizzate in Pokémon Spada e Scudo, ma è una grafica molto molto simile a quella vecchia, quindi ci sono, e i personaggi sono i tipici personaggi cibi con questo testone enorme che vanno in giro. Tu in realtà il personaggio, essendo adesso più tridimensionale, lo vedi per intero, però è il testone enorme, come erano un po' i vecchi videogiochi in cui praticamente vedevi soltanto questo testone gigante. Esattamente, hanno cercato di restare il più fedele possibile alle versioni originali, che erano ancora in 2D, riproponendo, diciamo, lo stile più che la grafica, ma in 3D, come va molto, esatto, in questi tempi. E tra l'altro, considerato, FireRed e Leaf Green sono usciti nel 2004, quindi sono quasi 20 anni che iniziamo a fare. Io devono fare il remake dei remake adesso. Tra poco, anche perché cioè, penso che di Aloha non faranno mai un remake, perché veramente è stato grosso insuccesso. No, aveva diversi problemi anche a livello di trama, che sono poi stati risolti insieme a una marea di bug in una edizione che nessuno si è filato, che era il secondo Pokémon Alloy. Ultrasole e Ultraluna. Ultrasole e Ultraluna. Sì, perché hanno dovuto risolvere una marea di problemi. Il problema è che non era gratis, perché aveva l'altro, ma dovevi ricomprartelo. E quindi nessuno se l'è filato, Ultrasole e Ultraluna. Piccolo, come dire, altra piccola pecca nel sistema di sviluppo della Game Freak, in questo voler riproporre un po' sempre la stessa pasta, la stessa minestra, facendotela pagare prezzo uguale, anche solo per correggere bug in questo caso. Su questo, sì, quello... vuol dire, ma andiamo con ordine, perché in realtà, Angela, mi interessa davvero tanto il tuo punto di vista, perché qua sarò stronzo io, come abbiamo già mostrato in precedenti episodi, ma effettivamente io non penso di aver mai giocato in vita mia, nemmeno a 10 anni, Pokémon per la loro storia. Questo sono abbastanza sono, sicuro. Infatti siamo veramente una minoranza di giocatori di Pokémon, per quanto siamo una community comunque relativamente piccola. rispetto a tantissime altre nel mondo dei videogiochi, il grosso dei giocatori gioca contro altre persone combattendo. E buona parte in realtà non gioca su Switch, perché ci sono piattaforme online per fare soltanto combattimenti. Quindi tu entri sulla piattaforma, ti buildi i Pokémon, ti fai il tuo team e combatti. Quindi in realtà tutta quella parte è praticamente gratuita. Poi c'è un grosso, una parte di giocatori che giocano per competitivo, però sono affezionati alla parte di creazione del Pokémon, per cui avevo il mio ex coinquilino che passava le notti a girare, a fare uova di Pokémon, a farle schiudere per avere il Pokémon. Il Tamagotchi, sì, sì. Giusto? Sì, tu stava lì con... Un altro mio amico metteva la molletta attaccata al tasto, perché in Pokémon X e Y c'era la città centrale che aveva una piazza tonda. Quindi se tu mettevi la freccia che andava sempre di lato, lui continuava a girare intorno a sta piazza e faceva passi per far schiudere le uova. No, no, vabbè. Ma che bello è! Tendo. Comunque io non l'ho fatto, d'altronde. Comunque, cioè... Questo non era sarcasmo da parte mia, l'ho fatto anch'io. Passare le ore a parare uova di Pokémon per assolutamente, ci ho avuto un po' anch'io il periodo da allevatore di Pokémon per un attimo, perché forse ero particolarmente depresso in quegli anni, quindi non si può o particolarmente felice. Comunque la cosa ironica è che la community di Pokémon è talmente grande, ogni volta che esce un gioco fa miliardi di vendite, che ci sono minoranze di persone dentro la community di Pokémon, cioè voi siete la minoranza. Ci sono quelli che giocano solo il single player, ci sono quelli che giocano nelle coppie, ci sono quelli che giocano in monotipo, cioè... Sì, ci sono tutte le varie run, come si chiama quella lì? Vabbè, le Nuzlocke, dici. Quelle sono in realtà già, cioè chi gioca comunque già la run del videogioco per la storia è già una minoranza di base. Sì, sì. Ma... Vediamo, poi, piccola domanda, perché vai. Scusate, velocemente, velocissimo. Voi avete detto che questo stile vi piace molto, no? Questo stile a me è piaciuto molto. L'ho sentito anche pareri contrari che preferivano gli stili precedenti, gli stili grafici di Spada e Scudo. Perché io da esterno, diciamo, da persona che ha visto solo trailer, così che ha visto un po' di gameplay e basta, che non ha giocato gli ultimi, quello che mi è piaciuto di più finora degli ultimi è Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Però non l'ho giocato, infatti a me è stata recriminata, cioè il mio amico che l'ha giocato mi ha detto proprio quello, che in realtà la grafica e lo stile è molto simile, è comunque lui... meno vecchio, cioè meno chibi, però non so, c'è qualcosa di, non lo so, non mi è dispiaciuto come scelta di stile moderno per un gioco di Pokémon, mettiamola così. No, io ho trovato che per i nostalgici, per chi iniziava a giocare a questi giochi, che tendenzialmente o sei un nostalgico, quindi hai più o meno 30 anni come me, e quindi sei contento perché dici oh wow, mi ricorda la mia infanzia, i miei momenti felici, oppure sei un bambino e quindi ha questi colori molto sgargianti, questa grafica un po' infantile che comunque e può apprezzare. Poi in realtà non so quanti siano i bambini che giochino effettivamente a questo gioco. Guarda, secondo me abbiamo iniziato benissimo, perché in realtà stavo appunto pensando come organizzare un attimo la puntata, perché in realtà in questi primi 15 minuti in cui hai introdotto l'argomento, ecco, io con la premessa mi ero un po' informato al riguardo appunto degli ultimi remake. Io da un po' che non gioco a giochi di Pokémon, però sto informato perché comunque fanno parte, penso che di aver parlato abbastanza della mia esperienza con i Pokémon su questo podcast, però in poche parole, parte importante della mia, come dire, giochi importanti della mia infanzia eccetera eccetera, e ogni tanto ovviamente sbircio quello che esce. Mi sono informato con varie recensioni, varie opinioni sugli ultimi remake, e mi ha particolarmente colpito come Angela in questo momento ha praticamente fatto da bastian contrario a tutto in generale, praticamente a tutto quello che criticano maggiormente le recensioni di più alta, come dire, Quelle un po' più popolari. Prendi conto così. Che io ho un'esperienza estremamente scarsa sui videogiochi, in cui tra l'altro io ho sempre giocato ai videogiochi in cui la grafica ha una rilevanza un po' minore, cioè non è che stai lì a guardarti il mondo come fai in Halo con il tuo bel rampino, però in XCOM non è importante che la macchina sia ben definita, ma quanta angolazione ti può togliere per il tiro critico. Su quello mi trovi assolutamente d'accordo, nel quindi senso in realtà la grafica sono molto più avuto... per i tecnicismi. Prego, scusa, finisci pure. No, no, semplicemente per me la grafica è... Se c'è qualcosa di carino, di decente disegnato, è un plus, non è qualcosa sempre che stato secondaria come cosa. Sì, sì. Ma infatti, quella di sicuro non te lo leva nessuno questo diritto, perché è una cosa bella dei videogiochi che possono essere vissuti in mille maniere diverse. Chi si interessa di più di una cosa, più dell'altra. Ma no, mi aveva proprio colpito il fatto di come casualmente, cioè, come dicevo all'inizio, non avevo idea di che cosa avresti parlato questa sera. Ma mi ha colpito come sei andata praticamente contro a queste tutte le critiche che ho sentito più dire in giro tra le recensioni che ho visto. Perché una delle cose, andando con ordine, le cose maggiormente criticate di questi remake sono state la grafica, che risultava eccessivamente, come dire, chibi, ed effettivamente, e alcuni dicevano strideva, no? Con lo stile, con il vecchio stile dei Pokémon. Con il vecchio Halo invece l'ho trovato una bella rinfrescata. Mm-hmm. Cioè ricorda il vecchio, ma ti dà una sensazione di nuovo. Infatti lì non è... si può criticare fino a un certo punto, nel senso è grafica più non si può trovare argomento in cui andare più a gusto di così. Cioè, sì, esatto, punto. Anche le animazioni sono meglio di quelle che erano una volta, perché chiaramente una volta i primi Pokémon l'animazione era il Pokémon che si spostava. Vabbè, cioè, assolutamente, si muoveva. Oddio, è vero! Scusate, il mio cervello si ricordava le cose più assurde, invece si spostavano e basta. Sì, facevano nient'altro. Scusa, ho avuto un'epifania, posso avere un'epifania per favore? No, assolutamente. Poi hai raccontato di come tu giochi i Pokémon per la storia, che di solito è sempre uno degli argomenti più criticati di tutta la saga, in quanto... La storia è quella, non è che si inventino mai niente di particolarmente nuovo, nel senso che la storia è sempre il bambino che parte, perché teoricamente c'è un evento che triggera il fatto che lui vada a cercare Pokémon. Quasi all'inizio trova il Pokédex, va un pochino più avanti, trova vari oggetti, eccetera. Poi... in base a quanto lo vogliono far difficile, le cose si trovano prima o dopo. Per cui, ad esempio, il condizionale di esperienza una volta era una cosa che ti veniva data dopo un tot e valeva soltanto per un Pokémon. Adesso te lo danno, c'è di default il condivisore di esperienza. La bicicletta. Più sì, controverse, quella è tra l'altro, di questa. Quella che vuol dire? Scusate. Che vuol dire? Infatti, voglio sapere, Angela. Allora, questo nuovo condivisore di esperienza, pollice su, a me non giù. Piace, no, a me non è mai non piace, l'unica cosa che non è piaciuta, capisco perché ci sia, cioè a livello mm-hmm. logico lo capisco, perché in realtà chi ha comprato Pokémon e ha la mia età probabilmente gioca la storia velocemente perché vuole arrivare a combattere certo. online con i Pokémon che è riuscito a buildare all'interno del gioco, e quindi i Pokémon che tu quando combatti online sono fino al livello 50. Se superi il livello 50 viene settato a 50. Questo cosa vuol dire? Che tutti arrivano con i Pokémon che sono superiori a 50, in modo che siano tutti pari. Il livello non è più influente. E quindi io capisco che tu lo metti perché effettivamente buona parte dei tuoi giocatori in realtà vuole che i Pokémon salgano velocemente di livello. Quindi tu fai l'uovo e vuoi che il Pokémon salga velocemente di livello. Quindi il condivisore di esperienza è di default per tutti i Pokémon, quindi il primo chi prende esperienza e viene data a tutti quanti. A me, che io sono sempre stata una che ci passava le ore a far crescere questi Pokémon, ad allevare tra l'altro, quindi vuol dire che tu avevi il tuo team iniziale, quello rimaneva perché allenare i Pokémon poi diventava un parto, non piace molto. A me non piace molto, però... Perché un c'è. Po' diluisce questo senso di... Allora, ti dà del vantaggio da una parte che se tu vuoi fare i cambi, che è una roba che una volta non si faceva, anche perché erano più semplici i Pokémon, per cui non avevi ad esempio la natura, non avevi una marea di robe. Mm-hmm. Avevi il tuo team e praticamente poi diventava quello, perché l'ultima palestra la Lega, non potevi portarti il Pokémon a livello 5. Se da livello 5, soltanto con i Pokémon selvatici che trovavi, dovevi farlo crescere, ci mettevi veramente, veramente tanto, anche perché i Pokémon selvatici ti danno quasi niente di esperienza. E invece così diventa un pochino più fattibile, per cui se vai in una palestra e vuoi riadattare un po' il tuo team e devi fare crescere velocemente qualcuno di livello, è fattibile. Capisco. In realtà lì, guarda, c'è sicuramente quell'aspetto, e da quello che ho visto in giro ci sono tante altre, come dire, critiche a questa, questa meccanica dell'esperienza sotto vari punti di vista, se, perché alla fine forse è una di quelle cose che si è sentita estremamente, soprattutto in questi remake, che hanno fatto, come dire, che ha dato molto fastidio in questi remake, perché appunto sono remake, cioè il gioco nasceva con un'idea di progressione. Esattamente. È una cosa che in realtà, siccome adesso è un po' che non usciamo remake, secondo me ci si è un po' dimenticati, però c'è sempre stata, nel senso che anche ad esempio Pokémon Rosso Fuoco non era esattamente Pokémon Rosso, che girava soltanto su un'altra console, ma avevano preso alcune robe che andavano da, che erano, perché Pokémon Rosso Fuoco forse è uscito dopo Argento. Assolutamente, sì, sì, sì. Era, è uscito per Game Boy Advance, quindi sì, sì, sì, sì, però non era esattamente Pokémon Rosso. Ad esempio c'erano alcune Pokéball che non c'erano in Pokémon Rosso, ma c'erano nei giochi successivi, avevano tenuto, o i Pokémon che potevano tipo tenere gli oggetti, alcune robe del genere avevano tenute, per cui è una cosa che più o meno hanno sempre fatto, tenere quello che più o meno si pensava piacesse o che avranno verificato che piacesse all'utente medio. No, no, ma certamente, ma in quel caso era un appunto rimodernizzare il gioco, perché se ci si pensa, in quel caso particolare si trattava proprio da passare dalla prima generazione in cui mancavano ancora molte delle meccaniche proprio ormai sì, adesso considerate base del gioco, e aggiungerle poi successivamente. In questo caso forse appunto volevo solo far notare che la scelta del condividi esperienza ha fatto molto parlare stavolta, perché è proprio una di quelle scelte che non è come cambiare le meccaniche del combattimento, che ok, dovrei ribilanciare un po' di cose, però vai a toccare no, proprio il sistema, è una cosa che cambia alla base. Questo è cambiare una cosa che praticamente sbilancia tutto il gioco, perché se il gioco all'inizio era pensato per farti progredire in, in una certa maniera, con un certo livello di esperienza da ogni palestra, questo ha sbilanciato molto la cosa, sì, e il fatto adesso che non fosse opzionale era anche peggio. Prego. Allora sì, forse renderlo opzionale sarebbe stata la cosa più gradita, perché così metteva d'accordo un po' tutti. Però ti apre anche un mondo di possibilità, perché appunto una volta, cioè, l'ultima palestra quella era, e con quei Pokémon ci arrivavi, e alla Lega facevi uguale. No, quindi è vero, il punto è proprio questo che mi fa piacere di sentire anche stasera, perché ecco, io sono uno di quelli che, come Jacopo può confermare, anche il nostro settore, a cui piace lamentarsi, questo è innegabile. Mentre abbiamo invece qualcuno che magari riesce a vedere anche il lato positivo di questa, di questa faccenda, perché giochi in una maniera diversa dalla mia, che è una cosa interessante, visto che io non ho mai provato. Sì, io gioco proprio alla storia, sono proprio una di quelle che passa le ore a giocare alla storia. Ecco, sarei molto curioso di sentire, tipo, tu tessere alcune lodi sulla storia dei Pokémon, se... Allora, la storia è sempre molto simile, non è che... cioè, è abbastanza lineare, molto simile, cambiano gli eventi trigger, cambiano gli obiettivi finali, però è più o meno quella. E ma che storia è? Cioè, cosa c'è di diverso? Perché hai detto prima, tutti quanti i giochi di Pokémon sono... bambino prende il Pokédex, va, c'è questo evento, il torneo, quello che c'è è. C'è questo evento misterioso, che in Pokémon Perla è il Gyarados rosso, in Spada e Scudo sono delle rocce antiche, in X e Y sono queste rocce antiche che poi sono per la Mega Evoluzione, non mi ricordo esattamente. In Pokémon Aloha è questo Pokémon che viene rapito, questo Pokémon misterioso che viene rapito, e in Pokémon Rosso Fuoco era la comparsa di Mewtwo, cioè c'è sempre un evento misterioso che triggera il bambino o la bambina che sia a partire alla ricerca dei Pokémon. Quindi poi tu ti fai le varie città e mano a mano sconfiggi vari team. Ci sono parti aggiuntive in diverse città, per cui ad esempio adesso io sono all'inizio e adesso devo sconfiggere i cosi che sono dentro le turbine, la centrale delle turbine. E hai diversi punti che ci sono, non ci sono, hai la torre fantasma in Pokémon Rosso che era di avere il condivisore esperienza sarebbe stata veramente la svolta, perché vai Pokémon che ci bestemmiavi contro perché erano resistenti praticamente a tutto. Ok. Quindi la storia è più o meno quella. Però hai... Scusa, prego. No, no, hai semplicemente alcune cose che cambiano, quindi i dettagli che cambiano, i Pokémon che trovi sono ovviamente diversi, hanno aggiunto anche lì un po' di roba, per cui ad esempio trovi adesso i Pokémon agli orari, cioè i Pokémon tipo degli orari, se giorno o notte, ho passato un... E in base all'orario che è nel gioco, quindi non è un orario reale, cioè non è un giorno notte di 24 ore, è vero, e può essere... In Pokémon allora potevi addirittura spostarlo. Ci sono Pokémon che escono solo di giorno e Pokémon che escono solo di notte. Per cui io ho passato, penso, un quarto d'ora, 20 minuti a cercare un Psyduck e non lo trovavo, girando continuamente l'intorno, non continuavo a non trovarlo per il semplice fatto che in realtà l'orario era sbagliato. Wow. Si torna sempre su quella classica storia del... Non è proprio la classica dell'eletto, sai, come dire, degli JRPG molto classici. Sì, soltanto tu classici. Puoi sconfiggere questi cattivoni, sono sempre più... Cioè. Esatto, cioè tu non sei proprio l'eletto, ma finisci un po' per esserlo, sei il ragazzino che parte per la classica avventura, per diventare allenatore di Pokémon e un modo o nell'altro finisci sempre per essere il campione o comunque il più forte della regione. E nel frattempo la Lega ci sono eventi, cose. Esattamente, ovviamente lo scoglio finale è la Lega Pokémon, praticamente rimasta invariata dalle primissime versioni, e nel frattempo il tutto viene condito con il classico, come dire, tu che incontri per caso l'associazione malvagia di turno che vuole o distruggere il mondo o conquistare il mondo o conquistare l'umanità o distruggere l'umanità, insomma un po' di più o meno la solita variazione. Infatti era anche per quello che ero curioso di sentire Angela sul fatto di come mai ti ci riesci a capire. Non saprei darti un motivo preciso. Ah, okay. È più o meno standard, lo so benissimo, non è che sono variazioni sul tema, però a me piace, cioè mi metto proprio lì con molta calma a girare le diverse città, poi mi cerco i Pokémon, li faccio, vai, segui i vari eventi, ho fatto addirittura una run tutta a piedi, fino ad arrivare al fondo per arrivare volo, quando è ancora bellissimo, questa è stupenda, secondo me. Sì, sì, lo accetto. Quindi tu riesci ancora a vivere quell'avventura che forse che a me manca in certi momenti, cioè quel metodo chill, proprio rilassato, sì, di vivere i Pokémon che ormai forse alcuni ma hanno perso. Ma lì dell'avventura, la vittoria... Scusa. Ah, Giorgio Vanni. Ottimo, non so, vedi, è questo, sto andando in brodo di giugiole a sentire raccontare una cosa che conosco così bene in un punto di vista che invece è completamente estraneo a me questa sera, e mi fa molto piacere di aver fatto questa puntata. E infatti, lo so, in realtà era sempre lì che torno, ma ci hai raccontato un po' cosa ti piace di Pokémon, cosa appunto, come hai vissuto le ultime esperienze, che se ho capito bene tu sei rimasta aggiornata, no? Li hai giocati praticamente tutti i titoli, quasi da tutti. Qui quasi tutti, forse ne manca uno tra a metà, però quasi tutti, gli ultimi tutti. Mm-hmm. Sì, sono contenta che in questa edizione abbiano tenuto quasi tutto quello che era in realtà di Pokémon, e che secondo me funzionava meno sui titoli precedenti, per cui ad esempio prendi la bicicletta all'inizio, non hai volo fin da subito. Mm-hmm. Questo mi ha fatto molto piacere che mantenessero. Ormai? Sono molto contenta delle musiche, che sono rimaste praticamente quelle vecchie. Sì, e in realtà mi piacciono anche le animazioni, che in realtà sono nuove, vecchie, nel senso che sono molto simili a quelle precedenti degli ultimi giochi, in cui effettivamente si poteva fare qualcosa di più del Pokémon che si sposta e basta per fare azione o botta. Però hanno lo stile vecchio, quindi hanno mantenuto lo stile vecchio. Poi anche lì i vari campi con questo stile 3D, ma cibi, a me piace molto. Quindi i vari campi, ambientazioni, o anche quando ci sono ad esempio le levitorocce, che sono penso questa sia una delle ultime edizioni in cui hai questo parto delle levito rocce e o la sabbia, sono molto carine, lo trovate molto molto carina. Bello, vedi, sono quei dettagli invece su cui io non mi sarei mai soffermato sinceramente, però una cosa che ho molto apprezzato anch'io è stata come, diciamo tra virgolette, il citazionismo che hanno fatto ai vecchi giochi con i modelli degli allenatori che iniziano la battaglia nella posa identica, sì, agli sprite 2D per poi iniziare a muoversi in 3D, e quello è stato un tocco veramente di classe da parte della casa che l'ha prodotto, che ricordiamo non è la Game Freak, questo è stato uno studio esterno che ha praticamente sviluppato i remake, mentre la Game Freak si spera stia lavorando ancora a Pokémon Arceus. Leggende Arceus. Ah, sì, abbiamo già allocato il budget probabilmente anche per quello. Giustamente. Quello effettivamente sarebbe un altro punto interessante da discutere, perché è la primissima vera, come dire, cambio di rotta, tentativo di, non so, smuovere un po'. Che ho aperta con Salla, nel senso che lui dice che quella dei Pokémon è un'occasione un po' sprecata. In realtà, secondo me, da un certo punto di vista, loro se la sono giocata molto bene, perché la community c'è e ti segue, c'hai un franchising che va ben oltre i videogiochi, che ti rende ancora abbondantemente. Poi che potessero fare di meglio su alcune cose, sono assolutamente d'accordo, cioè siamo tutti d'accordo che Aloha purtroppo ci ha buttato i soldi. Però secondo me, ad esempio, X e Y a me sono piaciuti davvero molto. E la storia anche è vera. X e Y è stato molto un... Se non sbaglio, no, sì, sono stati i primi Pokémon 3D. Quindi anche lì... Sì, dovrebbero essere i primi su... Un bel rischio, un bel cambio di paradigma che effettivamente devo ammettere, non è dispiaciuto del tutto nemmeno a me. Penso siano stati. No, non è vero. Gli ultimi che ho giocato sono stati Omega Ruby, è stato Omega Rubino. Quindi. Io quelli mi sa che ho perso, che non ho giocato. Ok. Adesso dove altro portare la puntata? A questo punto chiedo a te, Angela, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se a questo punto Jacopo, che è stato in silenzio finora, vuole aggiungere poi qualcosa alla discussione in questo caso. Ma ho una domanda. Ma quando dici Pokémon Alola, dici Sole e Luna? Sì, perché sì, esatto. Io li chiamo Alola perché si chiama così l'isola. Ok, no. Esatto. Ok, grazie. Sì, sì, no, è quello brutto, è quello universalmente riconosciuto come brutto. Sì, no, è stato proprio abbastanza il tonfo nell'acqua quello. Ah, un'altra roba che ho trovato molto carina, purtroppo non sfruttata pieno da me, che all'inizio ti danno un Pokémon leggendario, nel senso che se tu hai i dati di gioco di Spada e Scudo, oppure di Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, ti danno o Mew o Jirichi, uno dei due, in base a quale hai. E che è una scelta che in realtà ho sentito abbastanza criticata. Io invece l'ho trovata molto carina, anche perché te lo danno che è scarso sto Pokémon, non è il classico Pokémon leggendario che tu incontri da livello 50 perché l'hai incontrato a fine gioco. E in realtà lo becchi subito e quindi te lo dà a livello 5, che per carità è un po' overkill rispetto alle 5 statistiche davvero? Mi medie sembrava il di 20, non so eFoot. perché. Mi sembrava il 20, forse mi ricordo male io. No, no, l'ho appena preso. Ah, perfetto. L'ho preso tipo uno o due giorni fa, proprio. Anche infatti me lì. L'ha dato e me l'ha dato, me l'ho trovato sta roba al livello 5 che, vabbè, poi non avendo un grosso interesse io a giocarlo, l'ho spedito nel box diretto. No, il cattiverio, no. Beh, anche Sì, lì hai detto un'altra io di quelle dei punti più criticati, ovvero di come non tanto che sia, come dire, il dare i leggendari, perché i leggendari in dono ci sono non Ma sempre sì, poi in stati, ma sono realtà ormai diventati. non è così lungo, cioè il gioco di Pokémon, l'avventura non è così lunga e accedi abbastanza velocemente alla parte di scambio online, che non è più di quella quando eravamo noi piccoli che avevi il cavetto, e già quando avevi il cavetto, insomma, era un certo livello. Cazzo, le Adesso. creazioni col cavetto erano Esatto, tra peggio l'altro, tipo, noi dell'asta. avevamo, non è che ce l'avessero chissà quanti, eravamo tipo in due o tre in classe ad averci sta cavetto, quindi non è più quello lì per cui avere i leggendari è impossibile. Assolutamente, assolutamente. Ma infatti tutta la, diciamo, quindi l'esperienza del collezionismo è cambiata completamente. Sì, non ha, no, il fatto che una volta completavi il Pokédex eri Dio era un'altra roba. Ma se no io ho avuto un'infanzia felice in cui nessuno ha fregato nessuno negli scambi. No, anche io, sempre molto onesta, anche perché insomma io ero in un piccolo paesino, quindi quelli eravamo, se una volta che fregavi qualcuno ti rimaneva quella nomea e poi la lettera scarlatta scritta. Esatto. Ci sta. No, io in realtà l'ho apprezzata per cioè nel senso il fatto di darti un leggendario abbastanza cioè, subito, però veramente scarso. L'ho trovata molto carina perché ti dà questa piccola ricompensa per essere stato un fedele giocatore di Pokémon, considerando che comunque appunto in realtà i Pokémon leggendari ci arrivi abbastanza velocemente, se il tuo obiettivo è averli per completare il Pokédex ci arrivi velocemente a iniziare a poterli studiare. Sicuro immagino che sia apprezzatissimo da quelli che preferiscono il gioco in single player, quello di sicuro. Forse la cosa di cui si lamentavano proprio tutti era un po' molto la brutalità con cui ti venivano dati, nel senso erano questi vecchi in mezzo a un prato d'erba che a un certo punto dici, hai giocato a Pokémon, ma chi hai visto oggi? Era un po' brutale, diciamo. Vabbè, che altre volte hanno cercato di mascherarlo. No, più o meno. Non proprio, cioè nel senso quelli vecchi non proprio. Vuoi andare da questa parte dove ci sono i laghi? Tieniti sto amo. Ma che cazzo? Anche la bicicletta e queste robe qua. Però bicicletta e ami sono una cosa, Pokémon leggendari forse un po'... No, è talmente scarso che comunque devi metterti lì a allenarlo sto robo. Tra l'altro tu ci arrivi che i tuoi Pokémon sono non forti, ma tra il 15 e il 20 più o meno. Mm-hmm. Quindi ci metti poco a farli crescere con il condivisore di esperienza attuale. Però comunque te lo danno che è scarso, è proprio più da collezione che da voglio farmi. No, ma sicuramente... Se il tuo obiettivo è arrivare subito alla Lega, dici, grazie mille, ci arrivo subito. Se il tuo obiettivo è goderti l'avventura con calma, lo spedisci nel box, che comunque è sempre un'opzione, e lo lasci lì fino a quando non vuoi tirarlo fuori. Però sì, non è che, cioè, non è proprio molto condita o messa lì. Tra l'altro, per fortuna, io l'avevo letto nella scatola, perché l'ho comprato fisico, affezionata ancora ai giochi fisici, l'ho comprato e c'è dentro la scatola sto volantino che dice cerca qualcuno perché ti diamo un Pokémon, ti diamo il Pokémon leggendario. I che famosi senso? Volantini, sì, no, è un classico anche quello dei Pokémon, mettere tipo le confezioni, il volantino con dice cerca il Pokémon dell'evento speciale, qui, quello lì, in quel senso lì. Una cosa che mi è piaciuta, ma non mi ricordo in realtà se fosse già da quell'edizione di Pokémon o fosse successiva, è che per utilizzare le MN non devi avere il Pokémon in team. Esatto, cioè, anche vuol dire che è una grandissima rottura di scatole doverti allenare sto Pidgey perché sai che alla fine dovrai avere volo. Cioè, ora, i Pokémon volantili fanno universalmente schifo. Mi piace che comunque il livello di rant è alto, cioè il livello di insulti bellissimo, questa è la alto. Perfezione assolutamente. Cioè oggettivamente allora io ho pianto quando ho dovuto lasciare indietro il mio Pidgeotto, l'ho dovuto lasciare nel, come si dice, nel box. Perché cioè alla fine ho finito il gioco, mi ricordo, Pokémon giallo con Dragonite. Quindi non insultiamo i volatili, per favore. Sì, vabbè, tra un Pidgeotto che quando lo toccano muore, c'è ancora un po' di differenza. No, è stato... E tra l'altro volo è un attacco che, vabbè, è forte, però, insomma, si può trovare di meglio. Quindi, ad esempio, il fatto di poter usare Flash è una rivelazione. O spacca roccia, non è più un parto doverti portare avanti per un posto Pokémon, poi schiaffi nel box, perché alla fine era quello. Prendi un Pokémon, lo tenevi lì finché ti serviva e poi lo schiaffavi di nuovo nel box, perché tra l'altro adesso forse sì, alcune si possono cancellare, mentre una volta non si poteva. e tra l'altro una volta era unica, quindi una volta insegnata un Pokémon quello rimaneva. Adesso te ne danno più di una, che è anche un'altra roba che a me è piaciuta in realtà. Esatto, anche lì hanno parlato molto di come hanno dovuto ribilanciare tutta questa questione, perché Diamante e Perla erano ancora nella, come dire, nella filosofia vecchia di MT ed MN, mentre adesso c'era tutta quella nuova, ovvero le MT si possono usare quante volte vuoi, le MN non esistono più, non c'è più la limitazione che non puoi più cancellarle, non devi per forza avere il Pokémon che sappia la mossa per poter andare in certi luoghi. E però la cosa carina è che se ce l'hai, o se la insegno un Pokémon come ho fatto io, ti compare l'animazione del Pokémon. Cioè l'animazione cambia in base a se... Sì, sì, è stato molto carino. L'animazione del Pokémon rimane, però se non ce l'hai, amen. Puoi usarla comunque. Di classe, assolutamente. Sono curioso anche di chiederti che ne pensi di quella che è stata... diciamo la meccanica... Come si dice? Quella di la meccanica di copertina, ecco, di Diamante e Perla quando sono usciti e che adesso hanno riproposto con un'altra versione più aggiornata, più ampliata, quella dei sotterranei. Ah, quella è carina. A me piace. Perché alla fine, cioè, passo veramente un sacco di tempo io a girare intorno in questi pezzi. Però è carina, l'ho trovata carina. Ok. Che ne hai pensato delle aree sotterranee in cui catturare i Pokémon? Perché anche lì quello era un altro argomento, come dire, di discussione sul fatto. C'è chi piaceva, non c'è chi non piaceva. Chi criticava il fatto che i livelli si aggiornassero con le medaglie che ottenevi, quindi anche lì l'allenamento quello andava... c'è sempre stato. Allora, sono arrivati a un punto in cui avevano un po' esagerato, per cui non ricordo quale Pokémon, forse Sole e Luna, ora non ricordo più se fosse quello, che quello era diventato veramente un po' sempliciotto. Avevi quasi subito un mega parco che tu dovevi attraversare, ci trovavi Pokémon a livello 30, che tu dici va bene alla fine se voglio, se il mio obiettivo è iniziare a combattere online, però all'inizio quando i tuoi Pokémon hanno un livello medio di 20 e ti trovi dei Pokémon che sono nettamente più forti di fronte è un po' una seccatura, cioè ti fa perdere un po' di valore del Pokémon catturabili, sì sì, ti fa perdere un po' il valore del fatto di allenare il tuo Pokémon. Esattamente. Poi che i Pokémon diventassero più forti progressivamente che andavi avanti, questo c'è, da che io ricordi, c'è sempre stato. Sì, sì, beh, quello è normale. Il punto era appunto di nuovo... il punto era che di nuovo, essendo una meccanica nuova questa delle aree sotterranee dove potevi catturare i Pokémon, molti dicevano che avesse rotto di nuovo tutto il ritmo della storia, il ritmo dell'avventura. Il ritmo dell'imperatore. Ma cosa intendete? Perché io pensavo stesse parlando dei dungeon, no? Che ci sono sempre stati alla fine, le segrete con i 200 Zubat, quindi questa è una nuova meccanica. Oh no, beh, diciamolo effettivamente anche per chi conosce meno la serie, Diamante e Perla hanno introdotto, come succede molto spesso, come fanno ancora adesso, meccaniche esclusive di quelle due versioni che definiscono un po', come dire, sono quelle di copertina, come dicevo prima. E nel caso di Diamante e Perla era la questione dei sotterranei, ovvero il fatto che tu potessi accedere a quest'area sotterranea in tutta la regione di Sinnoh, con questo gigantesco network di tunnel e gallerie, in cui potevi fare minigiochi, potevi creare tipo delle stanze segrete che potevi addobbare e decorare come preferivi, nella versione base. Allora... E che in quest'ultima versione hanno ampliato aggiungendo meccanica, aggiungendo premi, aggiungendo anche una cosa completamente nuova, cioè quella di poter catturare Pokémon in questa zona, Pokémon esclusivi, Pokémon nuovi, difficili da trovare, che non si poteva fare. A me in realtà piace, nel senso che in realtà queste mini meccaniche introdotte un gioco alla volta piace, e non è neanche la prima volta che ti rompo un po' il gioco, perché c'era Pokémon X e Y dove tu potevi coccolare i Pokémon. Oh sì, assolutamente. Facevi questi mini giochi in cui coccolavi i Pokémon, gli davi da mangiare, gli facevi le carezze, giocavi un po' con loro, e se i Pokémon si affezionavano, i tuoi Pokémon schivavano con un tasso di, cioè avevano la schivata con un tasso altissimo, Per cui io che ogni tanto facevo sta roba, anzi, a dir la verità, la davo in mano a una bimbetta che abita vicino a casa nostra, che aveva tipo 6-7 anni, e lei si metteva lì e coccolava i Pokémon. Ah, che bello lo sfruttamento di minori. Esatto. Coccolava i Pokémon e i miei Pokémon scrivavano tipo più del 50% delle volte. Madonna, il 50%. Sì, erano, cioè, era diventata una roba incredibile, veramente scrivavano tantissime volte. Per cui, e quello ti rompeva abbastanza il gioco, perché se... E non so se l'hai notato, è stato un po' ribilanciato, ma c'è ancora quella meccanica. E ovviamente se c'è chi si è lamentato perché Pokémon, ovviamente... non lo so. Quello del Coccola Pokémon non mi... No, non Coccola Pokémon, ma diciamo la nuova meccanica dell'amicizia, del fatto che se fai diventi amici dei tuoi amico dei tuoi Pokémon, questi... sopravvivono ai brutti colpi oppure infliggono più brutti colpi, che è di nuovo stato oggetto di lamentele perché il gioco diventa poi troppo facile, diventa una passeggiata, eccetera eccetera. Beh, cioè, non so, io è una di quelle robe che puoi fare e non fare. Il mio amico ad esempio non ha mai coccolato un po' come gli ho dovuto dire io, perché gli faccio, ma senti, ma i Pokémon scrivono sempre anche tu, no, i miei mai. Per cui non è c'è una roba in più che c'è, non è che ti rompa per forza il gioco. E poi sempre qual è il tuo invece obiettivo. In realtà anche quello è il problema, cioè che è stato reso un po' come il condividi esperienza in suo gioco, che è molto più passiva come cosa, nel senso succede che i tuoi Pokémon divengano tuoi amici e non puoi farci molto, a meno che proprio non andare fuori dal normale stile di gioco per evitare che ciò succeda, per... Insomma, sì, anche lì è stata forse gestita un po' male come il condiviso esperienza. Non saprei in realtà, cioè nel senso, a me non spiace, alla fine è qualcosa che trovo anche abbastanza simpatico, però non è neanche qualcosa che, per cui provo particolarmente fastidio, perché alla fine c'è il Pokémon è quasi tutta probabilità, quindi ci sono Pokémon che hanno più probabilità di brutto colpo, Pokémon che ne hanno meno, e quando tu ti build il tuo Pokémon non giochi su Switch, insomma, cioè è qualcosa che ti gestisci, quindi per forza non mi crea particolare fastidio. Anche la natura mi pare influisca su ste robe, per cui in realtà la natura dei Pokémon. Ah, ok. La natura è l'indole, mi pare. E loro hanno Pokémon, la storia è rimasta sempre abbastanza lineare, ma hanno progressivamente complicato i fattori che fanno influire, che rendono il Pokémon unico. Quindi ci sono veramente quindi quando tu lo devi buildare, devi iniziare a considerare veramente tantissime cose, come interagisce con gli altri Pokémon, che ovviamente cambiano se combatti in singolo o combatti doppio. Jacopo, se non ti ricordi queste cose, mi sento offeso, devi andare a riascoltare Pokerante, tutta quanta da capo a coda. No, c'è troppa roba, cioè veramente mi sembra di fare la dichiarazione dei redditi, come dicevo prima, ogni tanto a pensare a tutte queste nuove variabili. No, ne devi veramente tenere tante, ne hai veramente veramente tante, che è quello che poi in realtà il giocatore medio gioca, cioè un mio amico che gioca competitivo, lui è entusiasta tutte le volte che aggiungono qualche roba nuova. Beh, certo. È un'altra di quegli aspetti che è sempre di, come dire, che può dare molto fastidio anche quello lì, cioè che, non vorrei iniziare una discussione troppo esterna, però quella al punto del fatto che, a differenza di molti altri giochi, prendiamo il classico LOL, TFT o qualsiasi altra cosa del genere, soprattutto anche lì sotto il campo l'aspetto competitivo, la Game Freak è molto reticente dal rilasciare patch tipo durante una season, se così si può dire, perché anche lì non hanno season, loro hanno questi titoli che escono. Esattamente, sono le generazioni, i titoli che escono, e anche lì... La patch, cioè dipende cosa intendi con patch, però la storia è quella, e se vuoi cambiare le meccaniche ti cambiano parecchie cose. Infatti anche quello, cioè ogni generazione, ogni roba è abbastanza legata, per cui tutta la strategia che tu devi pensare e adottare è molto legata al tipo di generazione che stai giocando, per cui se puoi usare le mega evoluzioni piuttosto che un'altra roba. Per questo, ad esempio, le levitorocce non sono più importanti nelle ultime generazioni, e invece prima erano delle robe che tu sapevi che il primo Pokémon che arrivava aveva le levito rocce, cioè era una roba standard. Mm-hmm, assolutamente. Quindi, se posso, non so, avviarmi alla conclusione, a meno che qualcuno non abbia altre cose da dire. Penso che Jacopo sia morto dopo. Io... E Jacopo, siamo sinceri, è un po' la ruota di scorta stasera. No, ma va bene così, cioè ho fatto il rant all'inizio sui giochi a turni di strategia, ci sta, cioè, non è che posso... Quello che ho un pensiero in conclusione da parte mia, poi ovviamente voglio che sia Angela a chiudere un po' la puntata stasera. Ma tutto quello che mi hanno detto stasera mi ha fatto pensare a una cosa che ho sentito più volte, mentre appunto mi, tra virgolette, studiavo un po' di recensioni in preparazione alla puntata. E cioè quella famosissima frase di come Pokémon sia un gioco che cerca sempre di accontentare tutti, no? E di come, questo penso che stasera sia ad esempio una parte di come questa frase abbia assolutamente un aspetto negativo per alcuni, positivo per altri, perché come dicevo prima, tutto quello che Angela ha, come dire, ha elogiato questa sera sono tutte le cose che invece forse hanno fatto allontanare me dai giochi di Pokémon, dalla saga principale dei giochi di Pokémon. E non so, e mi ha sorpreso rifletterci nel vedere come effettivamente Pokémon cerca di accontentare un po' tutti, da un lato la parte più tecnica con il competitivo, da un lato un po' la parte meno tecnica, non so neanche come definirla, più sentimentale, se vogliamo dirla così, della narrazione, della storia, dell'amicizia con le creature anche. E di come c'è gente che a questa frase risponde, la conclude con senza mai riuscirci del tutto, e invece per forza di cose ci deve essere anche gente che la conclude dicendo e per me c'è riuscita abbastanza, perché sì, cioè, alla perché fine... i fan continuano ad esserci. Sì, sì, sì, qualcuno si allontana, ma tanti giochi, cioè quelli che conoscono, che adesso l'hanno comprato, ci giocavano già da piccoli. Pokémon cerca di accontentare un po' tutti, ultimamente un po' per pigrizia, un po' perché probabilmente la parte più grossa, più verso il competitivo, però alla fine io ho sempre trovato un motivo per comprarci, sempre qualcosa che alla fine mi incuriosiva, dico vabbè, anche questa volta lo compriamo. Il fatto che non cali mai di prezzo è una roba che mi dà... che mi fa un po' saltare in aria tutte le volte. Anzi, però ricordiamo che Spade e Scudo in totale col DLC 90 cucuzze, se proprio vuole. Sì. Ed è calato di prezzo adesso, perché è uscito quello nuovo. Cioè, è uscito Pokémon Perla e Diamante, però... Però vabbè, quello è un problema in realtà un po' Nintendo, perché anche Fire Emblem l'ho comprato a un anno di distanza, perché ho comprato l'estate scorsa. No, ma quella è proprio la Nintendo che sa che i suoi... Lei... Come dire, in questo caso fa un po' la Apple delle grandi case. Se tu vuoi giocare a Pokémon, vuol dire che tu lo compri. Cioè, Nintendo è uno stile di vita, non è solo un gioco, quindi sa che si può permettere di tenere i prezzi alti. Sì, sì, anche perché appunto, cioè, sono esclusive, quindi o ci gioco lì o ci gioco lì. Precisamente. E quindi, Angela, io lascio a te, non so, concludere, poi, non so, Jacopo, se anche in queste puntate extra vogliamo fare... No. Okay, meglio di no, ok. Doveva morire tempo fa, il momento, non la persona. Ok, perfetto. Allora, Angela, lascio a te il palcoscenico, portaci a casa. Comprate Pokémon, è bellissimo, continuate a giocarci. E non fate come Marco che l'ha abbandonato, anzi Marco riprendilo. Però Marco hai letteralmente non continuato a giocare, che persona orribile. Perfetto. Capisco che è un gioco rispetto a tantissime altre robe di nicchia e soprattutto a dinamiche e uno stile di gioco che quello a turni in single player che è veramente un po' datato, o comunque non sicuramente non attualmente di moda. Però nell'insieme trovo che sia stato ben bilanciato, abbiano introdotto bene le cose, diverse cose vecchie che sono state riprese bene, e quindi il mio giudizio in realtà è molto positivo. Voto finale, come ho chiesto Jacopo prima. Ma allora, soltanto il condivisore di esperienza mi fa togliere un punto, però gli darei un bel 9 su 10. Oh. No, io sono proprio molto soddisfatta di questo Pokémon. Perfetto. Ah, poi ne approfitto per fare un'altra richiesta in diretta, e cioè il prossimo episodio speciale a questo punto su It Takes Two. Secondo me lo merita. È già in programma tra le varie cose. Immagino. È già in programma perché, spoiler, ha vinto il gioco dell'anno ai The Game Awards. Sì, non è meritato. Spoiler quando uscirà questo, quando uscirà l'episodio. Vabbè, sì, tanto ci sono già stati, quindi non è uno spoiler. Da un po' anche, probabilmente. Comunque, ho cambiato la idea su Halo Infinite durante questa puntata, grazie ad Angela. Non lo so. Hai ritrovato. Grazie ai Pokémon. No, per me è un 8.5. Ho cambiato idea. Okay. Ho alzato di mezzo. Hai ritrovato la passione, hai ritrovato l'Halo che era dentro di te. Comunque, non è il 9. Per il 9 si aspetta l'anno nuovo, però. Si aspettano i DLC e. Esatto, tutti i DLC e le patch del multiplayer. Quando aggiungono i sotterranei in. Lì. Quando potrai catturare cose con i Grunt. Quando potrò coccolare i Grunt su Halo, allora sì, cazzo, lì sarà. E ricordatevi. La roba era. Se volete giocare ai Pokémon, ma non volete giocare ai Pokémon, ricordatevi che c'è la mod per Dark Souls 3 in cui potete catturare e allenare i nemici del mondo e poi farli combattere. E ricordiamo anche Watch Dogs Legion, che puoi catturare e usare. No, Watch Dogs Legion è stato più una delusione che altro, quindi... è vero, è vero. Non consigliamolo più. Va bene. Bene, fantastico. Come dicevo, mi è piaciuta questa puntata. Cacchio, se sono contento di averlo fatto. Abbiamo avuto un ospite d'eccezione, un argomento d'eccezione in cui no, per una volta non ci sono io che per culo la Games Week. E in conclusione, quindi, che dire? Io ero Marco. Io ero Angela. Oh! Oh no! Oh no! E continuate a giocare anche ai Pokémon. Ciao ciao! Ciao a tutti. Ciao.